io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Buongiorno a te, mi dico Carlo. Stavolta, caro amico ascoltatore, a proposito, 800 24 00 24, Franco Piantini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, cari amici ascoltatori, cari tutti, allo Special One è andata di lusso, Mourinho e l'aiutinho. Questo mi fa dire che per Mourinho, al di là della dietrologia che fa qualcuno già su Twitter come Gennarino, qualcuno, poi chissà chi, ha deciso che erano giusto per fargli vincere a Mourinho un'altra Champions, decisione dell'arbitro assurda, eccetera. Al di là di tanta dietrologia, possiamo invece pescare nel passato di Mourinho, perché agli ottavi di San Siro, nell'anno del triplete, rigore solare negato al Chelsea, proprio negli ottavi, ai quarti pescò il morbido CSKA, e poi come è andata a finire lo sapete tutti. Ieri sera a Old Trafford, Mourinho senza l'aiutinho non so se sarebbe uscito con braccia al cielo dell'Old Trafford, no, mani in tasca e sorriso soddisfatto, questo sì. Ronaldo controlla, si gira e poi in scivolata Evra, prima che il pallone possa arrivare a Higuain. Intervento un po' scomposto su Arbeloa, l'arbitro lo espelle. No! Incredibile, no. Errore pacchiano dell'arbitro. Incredibile questa decisione dell'arbitro Katir, l'arbitro turco, perché guarda chiaramente la palla, Nani, si vede benissimo, vedete come segue la traiettoria del pallone, a questo punto è già partito per cercare l'aggancio e lo scontro è totalmente involontario, non c'è nessuna malizia, nessuna volontarietà. Nani all'uomo dietro, però attenzione perché questo è il momento decisivo. Vedete che lui tocca con il piede, ma poi resta con il piede sull'uomo e spinge con la gamba. No, non mi è scusato. Quando abbiamo perso con Barcellona la semifinale, Guardiola non si è scusato con me per l'espulsione di Pepe, per la simulazione di Dani Alves. Arbeloa non ha fatto teatro, non, è una decisione dell'arbitro che può essere giallo, ha deciso rosso, però noi non abbiamo fatto niente. Arbeloa ha avuto un contatto duro, abbastanza duro con Nani, e non devo scusarmi di assolutamente niente. Non so se Shakir, arbitro turco, sia davvero friend of Mourinho friend. C'è lo Star che ha già rovistato una spazzatura tra le tante cose che sono state scritte in Inghilterra, e è stato individuato un presunto account Twitter in cui l'arbitro Shakir avrebbe seguito tanto il Real quanto Cristiano Ronaldo. In realtà gli account che fanno riferimento al fischietto ce ne sono diversi, eccetera eccetera eccetera, ma poi le reazioni della stampa britannica, poi ve le dico, sono ovviamente tutte tra il triste, il depresso, lo scandalizzato, quasi fossero i giornali italiani. Filippo Maria Ricci invece dalla Spagna, corrispondente della Gazzetta e nostro. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. senza l'aiutino del, non so se sia il suo amico, ripeto, però senza l'aiutino Mourinho lo vedevo male. L'ha detto lui stesso: non eravamo la squadra migliore, non siamo stati la squadra migliore, non meritavamo di passare. Lì è stato molto onesto, anche perché insomma ha detto semplicemente la verità. Sì, però ci sono alcune cose. Voglio dire, come scrive Martin Samuel, in Inghilterra non è che sì, ti buttano fuori un giocatore e tu crolli in quel modo. Questo uno. Due, Mourinho è rapidissimo nell'applicare il cambio che dà il giro alla partita. Sì, Modric. L'entrata di Modric per Alberoa è roba sua. Sì. E qui, se vuoi, possiamo costruire un bel ponte con la Spagna, dove oggi, di nuovo, l'avevamo già raccontato la settimana scorsa, 25 pagine di Marca dopo il classico di Coppa, neanche un titolo per Mourinho. Oggi le pagine sono solo 21 e di nuovo non c'è un titolo per Mourinho. La parola Mourinho non appare in prima pagina né su Marca né su AS. Su Marca gli danno 5 in pagella. Ah, 5 in pagella. Motivandolo come? Perché Modric doveva farlo entrare prima, niente, so. La squadra gioca male, insomma, non lo so, senza alcun tipo di argomentazione. Sì. E intanto lui si porta a casa due Classicos in 5 giorni e passa ai quarti di Champions League. E a questo punto, secondo me, è la squadra da battere. Vittorie. Ovviamente, e la vittoria di sabato è condizionata, c'era un rigore per il Barcellona all'ultimo minuto, quindi poteva essere un pareggio, però insomma, comunque, quella di ieri di nuovo un po' condizionata. È vero anche che c'era un rigore, un mani di Rafael, mi sembra abbastanza solare, no? Che avrebbero cambiato un po' forse anche il corso della partita, però quello che per me è divertente, o comunque che per me resta, è il fatto che Mourinho ha fatto questa sua sparata storica 2 anni fa, facendo la lista degli arbitri che secondo lui lo avevano penalizzato. La lista, secondo me, i favori sono nettamente superiori ai danni nella carriera europea di Mourinho. Sì. Perché lui comincia la sua storia nel 2004 all'Old Trafford con un gol annullato a Scholes che era regolarissimo, che avrebbe cambiato completamente la partita, perché era la fine del primo tempo, il Manchester avrebbe segnato 2-0, vinceva già 1-0, andata 1-0 1 pari all'andata. Sì. E insomma, avrebbe cambiato completamente la partita. Dopodiché va alla Coruña e buttano fuori un giocatore del Deportivo che aveva fatto una carezza a Deco, era il suo migliore amico. L'arbitro pensa che gli stia dando uno schiaffo, e con Deco che gli dice: no, ma guarda, siamo amici, lo butta fuori. E poi insomma, di episodi ce ne sono tanti, per cui non ha tanto da lamentarsi. Infatti ieri ha fatto questo così, ma perché l'ha parlato così ieri? Perché comunque lui si sta tenendo molto buona la stampa inglese, l'Inghilterra, ha le sue ragioni, insomma, nulla viene per caso. No, ma sicuro, soprattutto quando si parla di Mourinho, è tutto ampiamente premeditato. Ma d'altra parte, lo disse lui un giorno, che l'allenatore del Real Madrid è un uomo fortunato, e Mourinho è indubbiamente un uomo fortunato. Sì, sì, sì, no, sicuramente. Ieri, però dico, io comunque la partita andava con sì, l'espulsione, chiaro che no, cambia tutto così, però voglio dire, allora non nascondiamo gli errori di Sir Alex, come può rinunciare a un Rooney, giocatore come Rooney, un giocatore in una come partita, Kagawa, certo. Io sinceramente non lo vedo, insomma, io ero lì, testimone di una delle partite più belle che ho visto in vita mia, il Real Madrid Manchester United del cos'era 2004 2005 forse, quando Sir Alex di nuovo lascia in panchina Beckham perché avevano litigato, Ronaldone il gordo fa 3 gol, Beckham entra dalla panchina e fa 2 reti e il Manchester United va fuori, di nuovo un errore di Sir Alex, che quando si mette diciamo di traverso con le persone insomma non ce n'è per nessuno. Sì. Questo pure va detto, insomma, la partita sì, l'arbitro turco, l'ottomano da una mano, come titolo del Mondo Deportivo, però insomma c'è dell'altro. No, c'è dell'altro. Filippo, un attimo di pazienza e chiudiamo il discorso parlando di questo altro, come viene sottolineato d'altra parte da alcune sporadiche testate, forse una sola al Daily Mail, anche in Inghilterra. 800240024 per intervenire su questo, su tutto ciò che vi pare in quest'ora di sport. Tutti convocati. Ma figuratevi voi se io ce l'ho con Mourinho, come mi scrive qualche ascoltatore. Certo, se Leutino lo davano a un'italiana, leggi Milan Juve, la verità è che vi sta sulle balle Mourinho, punto. No, perché Aiutino lo ebbe anche con l'Inter e fumo tutti contenti, mi pare. Stampa inglese, colpo da killer, scrive il Guardian. Telegraph, gigantesco furto ed uso eccessivo della disciplina da parte di un 36enne assicuratore turco mandato ad arbitrare un match così importante. Lo Star parla di real rage, ovvero arrabbiatura gigantesca. Mourinho ribattezzato dall'Express The Lucky One, non The Special One. Poi però c'è il Daily Mail che scrive: se la tua ala si fa sbattere fuori a torto o a ragione, questo non giustifica il fatto che tu debba prendere due gol in 12 minuti e perdere così la partita. Caro Filippo, Maria Ricci. Sì, è questo, è il commento di Martin Samuel, no, di cui si parlava anche prima, ha ragione. Poi il Manchester United ha fatto poi la sua partita, perché Diego Lopez ha fatto tre parate importanti, e lì sappiamo bene che con quella squadra, con Manchester United, se fai un gol, cioè se ne becchi uno, poi puoi anche beccarne un altro. Sì. Però è così, insomma, ieri Ferguson ha sbagliato tante cose, poi gli ha anche detto male, però Mourinho gli dice bene e poi azzecca un cambio importantissimo. Sì, Modric è quello che ha cambiato la partita, no. Al di là dell'espulsione, Modric è il giocatore che ha dato energia al Real Madrid, ha segnato un gol meraviglioso, ma è quello che gli ha cambiato passo, insomma, lì davanti. Sì. E io dico, a me è fatto anche piacere il pensare che ieri Kakà primo cambio, per me non ha giocato male, soprattutto dopo, quando le cose erano più facili. Sì. All'inizio ha faticato, no? Poi quando la partita si è messa meglio ha giocato meglio, però in generale è un cambio. Mourinho vede subito che Ferguson è costretto a chiudersi, o pensa che si chiuderà, toglie un difensore e mette un giocatore offensivo. Insomma, a me questo, anche alla faccia di Ironi, che gli dice di un catenacciaro, dicendo qua continuano a dire che non sa far giocare la squadra e tutto, insomma è una buona situazione, cioè un bel cambio, insomma. Sì, non c'è dubbio. Una grande lucidità. Beh, questo come minimo, no? Mi sembra il minimo per uno che ha vinto, che ha vinto così tanto. È chiaro, e tutto quanto. Adesso vediamo come si mettono i tabelloni. Real Bayern mi sembra la finale scritta, ampiamente pronosticabile, di questa Champions League. Ripeto, vediamo come si mettono i tabelloni. Mi domando invece, per chiudere, Filippo, il Barcellona che fine abbia fatto? Veramente quasi inspiegabile, cioè è inspiegabile un crollo tanto verticale, che le cose non andassero bene lo si poteva pensare. Io l'avevo scritto 3 o 4 settimane fa, no, una partita un po' così in campionato, magari c'è qualche speranza per il Milan, poi dopo il campionato è un test abbastanza ridicolo, nel senso che il Barcellona tende a vincere sempre. Messi va a segno da 16 giornate consecutive, per cui insomma sono test relativi, però non mi aspettavo un crollo tanto verticale. Questo c'è qualcosa, secondo me, di molto di psicologico, oltre che di fisico. La squadra è sola e per me anche giustamente non ce la fa. Io lì, per me la cosa migliore di tutta questa storia sono le parole di Rosella l'altro giorno, quando dice: va bene, se anche dovessimo perdere tutto, la salute dell'allenatore è la prima cosa, noi lo aspettiamo. E questo, voglio dire, gli fa onore, perché alla fine la vera ragione, cioè la ragione è quella. Certo, magari anche se c'era Villanova le cose non andavano bene, però insomma. Ma sai, avevi un allenatore, è una situazione abbastanza unica, abbastanza paradossale quella del Barcellona, onestamente. Esatto, cioè questo va tenuto in conto, anche perché il povero Roura non ha veramente il fisico del ruolo, insomma, lui è lì a dare una mano. Ha detto che ci sono così tanti giocatori di tale esperienza internazionale, giocatori che hanno vinto tutto, dagli europei, mondiali, Champions League, eccetera, eccetera, che probabilmente anche a Barcellona immaginavano potessero far fronte all'assenza di un allenatore, però la situazione è davvero unica nel suo genere, Filippo. Sì, guarda, io adesso proprio secondo me ci sono i primi segnali di autogestione, secondo me. Sì. Xavi è andato a trovare Messi e con Busquets. Sì. Xavi oggi si vedeva con Puyol, a pranzo andavano tutti insieme. Probabilmente hanno capito che, cioè, prima hanno lasciato un po' fare tutta questa cosa un po' telematica, sì, lui con Skype vede gli allenamenti, poi ci guida, fa telefona in panchina, hanno capito che non va, secondo me adesso vedremo un tentativo vero di autogestione, cioè Xavi, che tra l'altro è anche infortunato, secondo me sta già, non dico facendo da allenatore, ma quasi, ha preso in mano la situazione e vediamo, però perché questa è una squadra senza fiducia, senza corsa, senza, no, è stranissimo, insomma, vederli così, hanno fatto 55 punti su 57, sì, nel girone d'andata, sì. Sì, in Europa si erano visti dei campanelli d'allarme, no? 0-0 col Benfica, fatica col Celtic, però da lì a trovarsi in questa situazione, insomma, ce ne passa. Vediamo, io spero che continui la crisi, perché portare due squadre italiana ai quarti è importantissimo. Beh, lo è assolutamente. Io però dico attenti al lupo perché bastano 5 minuti e questi te ne fanno due anche in una, cioè, situazione di questo tipo. Però questo Milan, vedi che è la differenza che c'è tra, no, quando uno fa il sorteggio e quando poi si ritrova a giocare. Sono due mesi, sono importantissimi. Questi due mesi a cavallo poi, no, di Natale sono sempre molto molto importanti. Milan adesso è un'altra squadra. Ma certo, il resto è chiacchiera. Il resto è chiacchiera del sorteggio. Grazie Filippo. A voi, ciao. Ciao Filippo Maria Ricci, 800 24 00 24. Non vedo l'ora di cominciare a parlare con gli ascoltatori, però prima voglio farvi sentire un altro Mourinho, che è molto onesto e molto furbo, come si diceva prima, perché insomma non sono casuali le parole dolci nei confronti dell'Inghilterra, del Manchester United, delle squadre inglesi, del calcio inglese, che presumibilmente, salvo miracoli dell'Arsenal, improbabili peraltro, non porterà alcuna squadra tra le prime 8. Non lo so, loro sono forti, sono bravi, sono leoni di mentalità, sono aggressivi, però aggressivi nel senso positivo della parola, una squadra che mi piace molto, fisicamente fortissimi, con un allenatore che non ha paragone, e molto molto difficile, una grande vittoria per noi. Eh sì. Umberto Torino, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io volevo andare un po' controcorrente. A me il fallo di ieri di Nani, non vedo perché non dovesse essere cacciato. Alla fine io di falli così, senza intenzione, però molto pericolosi, me ne ricordo, Burdissa ne faceva due alla stagione quando giocava all'Inter. Mi ricordo Paci che prese 6 giornate col, sì, Parma, sì. Cioè, è normale che un arbitro vede uno scontro di gioco così forte e fisico che comunque non può lasciarlo correre, può essere tratto, poi sì, non parte, può essere corrida dopo, no Umberto, certamente poi sveglia Pepe. No, ma è un pensiero che ho fatto anch'io, eh. Poi Nani spinge con la gamba l'avversario, la botta gliela dà, entra sul costato. È un episodio molto borderline, certamente il giallo era la sanzione giusta, il rosso al decimo del secondo tempo è probabilmente una sanzione eccessiva, ma poi soprattutto dimostra una volta di più l'inutilità di questa miriade di arbitri, guardaline, giudici di fondo campo che ci sono, perché l'arbitro che era alle spalle dell'azione, piuttosto lontano, eccetera eccetera, può aver visto questo contrasto. In realtà Nani guardava il pallone, è stato un contrasto duro, ma se vogliamo tra virgolette fortuito, l'espulsione è in linea di massima eccessiva. Davide Milano, buongiorno. Che ti frulla in testa? E presto? Non mi toccare! Mostreranno a questa città lay down the boogie and lay down. Chi è la talpa? Mi hai sparato, mi hai trascinato per tutta la città e poi mi hai usato. Adesso gli ordini li do solo io. Oh, comandi tu ora. Sei la talpa. Sì, sono la talpa. Ah già, perché non abbiamo ancora capito chi è la talpa dell'Inter, che comunque reintegra gioco forza Cassano, perché praticamente sono in 11, lui compreso, a giocare a Londra. Palacio unica punta, Cassano si legge da tutte le parti, separato in casa, risoluzione del contratto a fine stagione, però si è allenato e pare non abbia chiesto scusa a nessuno, come al solito, però vorrà a Londra per ragioni anche numeriche. Davide? Buongiorno. Allora, lei magari sa chi è la talpa. Ma qui io sono di Milano, le voci dicono del Cuccio che potrebbe il essere Cuccio. Stato lui. Al secolo Esteban Cambiasso? Esteban Cambiasso, esatto. Io ne ho sentito un po' di tutti i colori. Ma lì non lo sapremo mai, credo. No, non lo sapremo. Abbia fiducia. Abbia fiducia. Vedrà che quando apriranno gli archivi vaticani salterà fuori. Lo so, ma non saremo qua probabilmente noi a poterlo vedere. Dica, Davide. Le volevo fare innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Grazie. Il mio sostituto di Garanzini. Grazie. Io mi trovo spesso e volentieri d'accordo con lei. È un po' provocatore, ma mi piace questo. Però su Mourinho purtroppo mi trovo assolutamente contrario, perché sentirmi dire che ci manca Mourinho è qualcosa che va un po' contro le mie aspettative. Lo so, Davide, però Mourinho è come l'aglio: o ti piace da impazzire o ti fa schifo, no? Può essere anche quello, però noi confondiamo magari la personalità con la maleducazione, perché i gesti delle manette a San Siro di 2 o 3 anni fa, sì, insomma, ho visto, per chi ti ospita. Ho visto, sì Davide, però ho visto anche di recente gesti maleducati sui campi di Serie A, li avrà visti anche lei, no? Sì, ma io infatti non mi mancano per quello. No, però sono di allenatori tra l'altro che io stimo molto e il cui comportamento mi fa male, ed è chiaro il riferimento degli Orossi. Sì. Abbiamo visto questi gesti, abbiamo visto i tentativi puerili di nascondere la verità di questi gesti che erano stati immortalati da 1000 telecamere. Poi oggi, per l'appunto, perché ci sono 1 milione di telecamere, queste cose non si sfugge. E la macchia è stata peggiore cioè il tentativo di pulirla è stata peggiore della macchia stessa. Insomma, a me manca Mourinho come personaggio. È vero, arrogante, è vero, qualche volta gioca con la maleducazione, però è un grande allenatore di calcio, questo è secondario, è un grande personaggio di sport e questo è innegabile. Poi è chiaro che uno come Mourinho o ti piace o lo detesti, a seconda della tua corrente di pensiero. Ci fermiamo per la borsa, poi c'è Justin da Treviso, altri ascoltatori 800240024, molte altre cose da ascoltare. Il tuo è un rosso relativo. L'arbitro lo espelle. No. Incredibile, no. Errore pacchiano dell'arbitro. Tutti convocati. Insomma, io non ho ancora ben capito, ma siete d'accordo con me o no se dico che le stelle, alzando un po' la testa dalla partita di ieri sera, le stelle e il vento, anche quello dei fischietti, dicono che è l'anno del Real Madrid. Questo potrebbe essere l'anno del Real Madrid di nuovo di Mourinho. Siete d'accordo o no? 800240024. Justin da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Tanto sa che lo sa che c'è stata la conferenza stampa di Messi che grida nel bosco? Grida nel bosco? Sì, possiamo rimontare al ritorno come il Milan ha vinto San Siro, possiamo farlo anche noi al ritorno, dice Messi. Sì, certamente è possibile, sono una grande squadra e, come ha detto lei prima, possono segnare 2 gol in 5 minuti, pochi secondi. Questo certo. No, infatti, ma io volevo commentare sul discorso delle espulsioni ieri. Al di là della bravura di Mourinho nell'interpretare il cambiamento, direi che il discorso è un po' più fondamentale, no? Cioè l'interpretazione delle regole del gioco dell'arbitraggio, dell'arbitro. Cioè io ho giocato tantissimo sport. E si sa che lo sport è una cosa che si può anche giocare senza arbitri, perché le persone sanno gestire le regole, eccetera, eccetera. Cioè bisogna stabilire qualche regola, perché così il gioco è più bello, è più facile giocare, no? Sì, con l'arbitro. Gli arbitri, fortunatamente, sono necessari, perché ci sono le persone che tiranno vantaggi dell'abuso per il regolamento, se non sbaglio. Sì, magari involontariamente anche. No, involontariamente, a volte lo fanno anche volontariamente. Ieri sera non mi è sembrato... Un arbitro bravo sa quando un difensore tira il camice del giocatore che sta andando avanti. No, ma lei ha ragione. Era un episodio borderline anche questo, perché comunque l'arbitro vede il giocatore che entra con il piede molto alto, poi sta guardando la palla, entra in modo scomposto sull'avversario, è poco aiutato da tutta la corte dei fischietti che vediamo intorno ad ogni partita, probabilmente sbaglia il cartellino. Questo però non giustifica, come scrivono d'altra parte in Inghilterra, se la tua si fa sbattere fuori a torto o a ragione, non giustifica il fatto che tu debba prendere due gol in 12 minuti e perdere così la partita. Cioè, questo crollo improvviso e verticale del Manchester United, che sembrava così forte, così deciso, così determinato, non può essere unicamente giustificato per una squadra così esperta dall'espulsione probabilmente sbagliata di Nani. Quindi era avanti 1-0, è vero, resti in 10, ma mi viene in mente sempre il signor Mourinho, che in 10 per tutta la partita riuscì a resistere al Camp Nou. Quindi non è detto che il destino sia scritto, mentre quando è uscito Nani hai avuto l'impressione che lo United si sia sgonfiato, abbia perso molta della sua fiducia. Torneremo a parlarne tra poco. 800 24 00 24, numero verde. Sono anche giorni di motori e di polemiche televisive, anche se poi alla fine scopriamo che la Rai farà vedere tutti i gran premi, che Sky ha la diretta esclusiva di 9 corse su 18, ma anche su quelle 9 corse su 18 ci sarà un passaggio sulla Rai, ovviamente non in diretta ma con 3 ore di distanza. Le altre 9 corse si vedranno su entrambe le reti, quindi questo è il senso di questo accordo, che a Sky costa 40 milioni, alla Rai la metà. Dunque, visto che siamo in tempo di motori e che il mondiale è dietro l'angolo, c'è un Montezemolo che ha parlato. Penso che la Speranzosa sarà tra le protagoniste. Essere la favorita mi sembra eccessivo, bisogna stare coi piedi per terra, bisogna vedere gli altri. Quello che mi fa piacere è che tutto quanto ci si aspettava da questi test è avvenuto, quindi è importante aver visto una correlazione tra i dati della galleria della simulazione e quelli dell'asfalto. Però è troppo presto. Questo è il rombo di una Ferrari. Non deve avere tutte le viti a posto, un po' come me, il collega Marco Mensurati, ormai nostro amico di lunga data, che è salito a Barcellona la settimana scorsa a fare un giretto con Alonso e con la Ferrari di serie nuova. Ciao Marco. Ciao a te, buongiorno a tutti. Sei salito per fare un giretto di pista, ho visto i filmati, Alonso guidava come se stesse portando a scuola il bambino, poi come è andata, cos'è successo? Ma è successo fondamentalmente che nella macchina a fianco alla nostra abbiamo incrociato Marc Genet, che è uno dei collaudatori Ferrari, ma soprattutto è uno dei più grandi piloti in giro di Gran Turismo, e quindi Alonso non ha resistito alla tentazione di sfidarlo, insomma un po' come due coatti di periferia, Genè e Alonso, non curanti del loro bagaglio umano, che eravamo io e un altro giornalista tedesco, se non ricordo male, si sono ingarellati, come dicono a Roma, ma insomma hanno toccato punti bassissimi dal punto di vista anche tecnico, nel senso che poi Alonso, come era rimasto un po' indietro per cercare di recuperare, ha fatto veramente di tutto, anche cose che probabilmente non proprio ortodosse dal punto di vista tecnico della guida. Sì, ci saliresti di nuovo? Ma alla fine sì, insomma è più sicuro quando guida Alonso di quando guido io, considerando che un sacco di volte guido io, è meglio con Alonso. Sì, poi se appunto non hai tutte le viti abbullonate giuste come me, quindi moto, macchine eccetera sono un'attrazione fatale. Comunque mi confermi che Alonso guidava, io ho visto le immagini, guidava con il sorrisetto come se stesse guidando lo scuolabus. assolutamente sì, va anche detto che quelle macchine che sono delle Ferrari 458, che sono praticamente degli oggetti perfetti rispetto alla macchina che aveva guidato fino a mezz'ora prima, cioè la macchina di Formula 1, hanno una tenuta e un, insomma, è un po' come scendere da un aeroplano e salire su un autobus, insomma, nonostante la Ferrari 458 appunto sia una macchina pressoché perfetta, insomma, sia una macchina da corsa a tutti gli effetti, esattamente, insomma. Marco, che aria c'è alla Ferrari? Cosa dice Alonso? Cosa ti ha detto? Cosa hai respirato in queste prove di Barcellona? Ma c'è una serenità sicuramente più diffusa rispetto allo scorso anno, quando negli sguardi e nei gesti un po' di tutto il motorhome Ferrari c'era invece più paura, ecco, era più percepibile la paura. Dopodiché c'è anche la consapevolezza che il mondiale che si va ad aprire sarà un mondiale comunque molto equilibrato, in cui le macchine che vedremo sono delle macchine, questo non ho ben capito se il pubblico se ne è reso conto, ma insomma sono macchine molto simili a quelle dell'anno scorso dal punto di vista regolamentare, quindi i team avevano molti parametri, hanno avuto molto tempo per cercare di scavare da quei regolamenti il massimo, quindi è possibile, probabile, diciamo quasi scontato, che poi alla fine ovviamente il Formula 1, il colpo di genio è sempre dietro l'angolo, però insomma in linea di massima dovremo vedere le prime cinque macchine tutte molto quante vicine, raggruppate molto vicine, magari con lo stesso ordine dello scorso anno, quindi prima la Red Bull e ultima la Mercedes probabilmente, ma molto più vicine, quindi se già l'anno scorso è stato molto equilibrato, quest'anno dovrebbe essere altrettanto. Anche se tu giustamente scrivi occhio alla Mercedes con Ross Brown e Hamilton al volante, perché potrebbe essere quella che bagna il naso a tutti in una stagione in cui i distacchi, i livelli sono così vicini, anche perché la grande rivoluzione, come sappiamo, sarà l'anno prossimo, e c'è chi dice ma si pensa quest'anno all'anno prossimo. Secondo me la Ferrari non può permettersi di fare i conti, perché questo è l'anno in cui deve vincere, anche perché sennò poi potrebbero aprirsi altri scenari, Alonso che se ne va, eccetera eccetera eccetera. Ma è pieno peraltro di persone che continuano a rilanciare su quest'anno, in Ferrari non possono permettersi un ulteriore debacle, parliamo di molte persone all'interno del team. Io sì, se avessi diciamo del denaro da scommettere, i miei due uomini sarebbero Raikkonen ed Hamilton, intanto perché sono due fenomeni e questo non va dimenticato, entrambi campioni del mondo, entrambi molto robusti alla guida, e poi perché appunto la Mercedes ha Ross Brown, che insomma anche lui è un po' un bivio, se fallisce anche quest'anno rischia guai, e Ross Brown è uno che non è abituato a perdere, non è abituato a farsi allontanare dai team, insomma lui i team li costruisce e li rivende, ma non si fa accattare. E invece l'altro, Raikkonen, può contare su una Lotus che non va dimenticato, lo scorso anno specialmente nelle prime gare era chiaramente la macchina più forte, sì, più forte ancora della Red Bull, poi ha avuto problemi di sviluppo, ma l'impianto di macchina era in assoluto il più rivoluzionario e il più efficace, poi problemi di budget, non hanno avuto modo di sostenere il ritmo degli altri. No, ma perché questo è il discrimine, no? Se parti forte o parti piano, poi se hai i quattrini per fare lo sviluppo della macchina competi per il titolo, se no ti accontenti e ti fermi lì. Marco, ti ringrazio e mi raccomando, allaccia bene le cinture la prossima volta. Sì, tutto allacciale. Stai attento. Ciao Marco. Ciao, e a voi. Tutti convocati. C'è una talpa al vertice dei servizi segreti inglesi. È da un bel po' che è lì. Talpa ai vertici dei servizi segreti inglesi. La talpa anche chissà dove, nascosta ad Appiano Gentile. Non si è ancora capito. Intanto Mourinho ieri ha detto una cosa che poi vi faccio sentire. Paolo da Rimini, Gabriele da Udine, però li sentiamo prima. Buongiorno Paolo. Sì, pronto. Sì. Ecco, sulla talpa ho sentito finalmente Moratti dire una cosa molto intelligente. Più importante che queste cose non succedano, più ancora di scoprire chi è che le fa uscire all'esterno. Ma io la penso al contrario. Moratti, sì. Io sì, perché queste cose succedono praticamente in ogni spogliatoio. Poi non conosco le dinamiche, non conosco esattamente ciò che è successo, però sono, io credo, non all'ordine del giorno, ma piuttosto frequenti quando si ha a che fare con un ambiente che è sempre comunque caricato di tensioni, che è sempre comunque agonistico. Quindi io la penso esattamente al contrario rispetto... Volevo però portarti un attimo su campi da basket. Se portami, hai visto Milano-Siena e le ultime due gli ultimi due antisportivi, in particolare quello a Kangu, che cosa ne pensavi? E sulle riforme dei campionati di cui stanno discutendo i vertici della federazione. Si fanno un sacco di parole, poi voglio vedere quando verranno attuate, se saranno funzionali al nostro disastrato movimento cestistico. Perché sono anni che sentiamo parlare di riforme dei campionati, ma fino adesso non ho visto niente di risolutivo. Continuiamo ad andare avanti con squadre che non hanno il becco di un quattrino e che vengono comunque puntualmente riammesse al campionato di appartenenza e poi ci mettono pezze qua e là. Continuiamo a sentire degli stessi problemi. Adesso proprio Siena ne ha uno grossissimo e che conosciamo bene. Quanto a quei falli antisportivi, non vorrei scendere nella polemica dritta e ritrita che c'è ormai tra queste due squadre. Credo che sarà un bel duello nei playoff. Non so a che punto dei playoff possa cadere. Mi aspetto un duello molto caldo da entrambe le parti, perché su questo tasto degli arbitri si insiste da ormai più di un anno, cioè da quando qua davanti a me Sergio Scariola apre il vaso di Pandora parlando di Aria Rancita. Da lì è stato tutto un susseguirsi di sfide, di accuse anche troppo velate. Gabriele da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Dunque, niente, il mio intervento era un appunto su Mourinho. Mourinho comunque sia, al di là di quello che si dice per il suo comportamento, per il suo atteggiamento, è un numero uno. Dei allenatori così ce ne vorrebbero e come. Quest'anno comunque sono d'accordo con lei quando dice che Real Madrid sicuramente è una finalista della Champions League e molto probabilmente la vincerà anche. Naturalmente Mourinho, adesso sono pronostici che diventano subito carta straccia, lei sa bene. Anche dei precedenti. Mourinho, io sono un tifoso interista e l'ha dimostrato anche all'Inter, nei periodi febbraio-marzo viene fuori veramente il carattere dell'allenatore trasmesso alla squadra. Quindi al di là della fortuna, tipo ieri col Nani che è stato espulso, sì. Non è Nani che fa la squadra del Manchester, sono altri 10 uomini che la fanno. Quindi... Sì, questo è vero, sono saltati gli equilibri e si è sentito fin troppo colpito il Manchester United da questo episodio sfavorevole. Ma lei, caro Gabriele, sa dove vuole andare Mourinho? Glielo faccio sentire. No, io ho detto a presidente Moratti qualche giorno fa, io voglio andare alla finale d'Europa League. Voglio andare con lui. È stato determinato. Sono Sheikh Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono lo sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Dammi la Roma. Non può mancare l'angolo dello sceicco, perché ogni giorno scopriamo delle cose meravigliose come questa sull'eco di Bergamo. Vi ho detto ieri che Al Kaddoumi ha sporto querela nei confronti di chi ha rilasciato dichiarazioni lesive nei suoi confronti, come quelle dei vertici del Don Orione di Bergamo, centro di accoglienza. Direttore del centro di accoglienza Dario Perico aveva messo in guardia la società giallorossa sulla credibilità dello sceicco in un'intervista appunto all'eco di Bergamo. Ci disse di essere il figlio del re saudita Faisal e ci promise 10 milioni. Ma quando veniva a trovarci non aveva neanche i soldi per il caffè. Ma io dico, se uno così non è riuscito a convincere noi, modesta struttura amministrativa, come fa una società grande come la S Roma a stargli ancora dietro? A noi un anno fa disse che aveva già su un conto svizzero ben 23 miliardi di dollari, continua Perico. Ma a Bergamo si presentava sempre col cappotto di cammello con il quale è stato immortalato all'Olimpico. Dopo che abbiamo parlato di lui, all'Eco di Bergamo ci ha mandato una decina di sms. Ma che vi ho fatto di male? E conclude Perico. A noi fa anche un po' di tenerezza. Mirko, provincia di Bergamo. Pronto? Pronto. Dottor Gento, buonasera. Buonasera. Grazie per la convocazione. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie a lei. Io volevo fare alcune considerazioni su, diciamo, tutta questa venerazione nei confronti di Mourinho in Italia. Ripercorrendo un po' le tappe della carriera di Mourinho, l'ho visto sempre allenare super squadre. Sì. Tranne magari il punto di partenza da dove è iniziato, e squadre poi che stavano attraversando nei campionati nazionali un periodo, diciamo, tra virgolette, di rinascita. Ricordiamo l'Inter di Mourinho in Italia con il Milan, che partì in quel campionato con se non sbaglio meno 15, sì. La Juventus in B, il Napoli, la Roma e Lazio ferme con il mercato, se non ricordo male, fu negli anni precedenti quelli di Mancini, ma comunque Mourinho prese un Inter reduce dai successi di Mancini, sì. Questo sì. Stessa cosa, diciamo, quando comunque andò al Chelsea che non ha, ecco, non ha vorrei, che vorrei, fin lì non aveva ancora vinto, ricordiamo. Sì, ma comunque il c'erano già formate delle basi abbastanza solide per degli anni vincenti. Io penso che gli allenatori italiani, in questo caso faccio anche nome e cognome Antonio Conte, non ha nulla che invidiare appunto per il palmarès, per come è iniziato, ricordiamo i successi di Siena, i successi di Bari, al mister Mourinho. E penso che questa Juve quest'anno possa andare fino in fondo. Speriamolo tutti insieme. Io credo che ci sia ancora una certa distanza quanto a risultati tra Antonio Conte e Mourinho, che a mio parere è un grande allenatore di calcio ed è un genio mediatico. Non condivido la parola con cui lei ha aperto l'intervento, cioè venerazione, non c'è venerazione. C'è magari ammirazione nei confronti anche dell'intelligenza di questo, della scaltrezza, se preferite, di questo personaggio. Aldo da Milano, non riesco a sentirlo. Lo facciamo. Aldo! Buongiorno. Buongiorno. Ho 10 secondi, di cosa voleva parlare? Niente, volevo parlare dell'arbitraggio di ieri sera per quanto riguarda. Se lei ha tempo possiamo farlo anche domani, La convochiamo per primo, guardi, glielo prometto. Domani quindi apriremo con Aldo da Milano, prendete nota, ragazzi. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, io vi saluto, ciao, a domani alle 14. Tutti convocati.